Devo accenderlo, no? Di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Reach out, touch faith. Come la vedi questa pagina? La vedo come un'infamia per un grande paese che amo, la Spagna, nelle mani di un incapace, incompetente, irresponsabile che ha macchiato la storia del suo paese democratico di una pagina vergognosa. Vabbè, mi scuso con i tifosi bianconeri, ma è la cronaca, è diritto alla cronaca, no? Sai come fa Sallusti quando fa un frontale contro qualcuno? Fa, scusi signore, ho detto, vabbè, insomma, così è un fatto. Non è che il lavoro è usurante, è il lavoratore che è usurato. La coerenza la ritroviamo purtroppo solo nelle coniglietti di Playboy. Ma se io e te convochiamo il referendum per la secessione della Lombardia, io e te, senza regole, ci vengono a menare. Puoi non farmi parlare eletti. Quanto vuoi, ma questo è il sistema per impedire. Comandami la polizia, fai quello che cavolo ti pare. Ma se il Vermont si secede, Bush ci manda la Guardia Nazionale? Ma lei se lo immagini, il mio piccolo Molise, che è più piccolo di una circoscrizione di Roma o di Milano. Si secede e si unisce al Zannio. Sarà anche questa una bolla di sapone, quindi siamo abbastanza fiduciosi. Ma l'Europa è morta ieri a Barcellona. Bravo. Di Oscar, l'ultima parola. Oscar. Silenzio di solidarietà per le vittime della violenza di Rajoy. Popolo dei Giasvegli, buongiorno. Luca Telese, Radio 24, le 6:31 minuti, 56 secondi. Incomincia ad albeggiare, il sole sorge e voi siete in giro a lavorare. E allora, grande e tremenda giornata quella di ieri, e ancora una volta parliamo di una strage, parliamo di morti, ma parliamo di tante altre cose. Si muove la politica, si scuote l'Europa, il Barcellona diventa il fulcro di una campagna indipendentista, i fischi a Piqué, il capitano della nazionale, oggi leader di una possibile nuova nazione d'Europa, sono l'immagine che ci consegna quanto è grave e quanto è profonda la spaccatura dentro la nazione spagnola. Fritto misto. C'è un attentato, uno sparato. Sospetto qua, devo stare zitta in silenzio. Sono nella stanza 17:50 del Tropicana insieme ad altre persone. Cioè, l'edificio è pieno di gente, non si sa se è sicuro, non so niente. Stanno ancora sparando. L'incredibile cronaca in diretta. Pensate, una ragazza di Voghera. Una ragazza di Voghera che con WhatsApp comunica, questa è la modernità, comunica la paura, ma comunica anche il racconto. A Las Vegas gli spari, una ragazza da Las Vegas racconta il terrore in America. We are joined together today in sadness, shock and grief. Last night a gunman opened fire on Donald Trump at a country music concert in Las Vegas, Nevada. It was an act of pure evil. Pure evil, è stato un atto di pura malvagità. Così il presidente degli Stati Uniti commenta l'attentato, la strage di Las Vegas. E guardate invece con che tono il leader della Lega, Matteo Salvini, condanna la violenza della Guardia Civile in Spagna. Nel giorno della festa dei nonni, vedere degli anziani, delle donne e dei bambini sanguinanti e malmenati perché volevano votare è una cosa incredibile. Poi uno poteva essere d'accordo o non d'accordo col referendum, ma la violenza e le bastonate non sono mai la soluzione. Meno male, perché ricordate che a Pontida aveva detto, con noi al governo, mano libera alla polizia. Quindi quando si stringe mano alla polizia per dare qualche bastonata siamo contenti tutti. Sentite invece il portavoce della Commissione europea sul referendum catalano. Si arrampicano un po' sulle uova. L'Europa è in ebollizione. Under the Spanish Constitution, yesterday's vote in Catalonia was not legal. We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Allora, è illegale per la Costituzione spagnola, ci dice il portavoce Margaritis Schinas, però ci dice anche invitiamo tutti al dialogo, la violenza non è uno strumento politico. Ma che cosa facciamo? Un colpo alla botte ed uno al cerchio? È tempo di prendere posizione, non esistono più le doppie soluzioni. Per quanto mi riguarda, per quello che ha detto Di Maio sui sindacati, va sculacciato e messo faccia a muro, perché le cose che dice il vicepresidente della Camera che è i sindacati o si riforma o ci pensiamo noi, e beh, ma insomma. Signori, Cirino Pomicino che rimette a posto Di Maio, difensore, ultimo difensore delle libertà sindacali, Cirino Pomicino, giù il cappello di fronte al vecchio dinosauro democristiano che adesso sembra un leader schierdista radicale. Abbiamo posto al Presidente del Consiglio alcune priorità per noi indispensabili. Innanzitutto che la legge di bilancio non deve più avere mance elettorali come è successo in passato. Diventa fondamentale poi il tema del lavoro. Le nuove assunzioni ci devono essere, nuovi investimenti, ma anche tutela del lavoro e dei lavoratori. Credo che siamo persone serie e responsabili. Attendiamo risposte su questi temi. E l'avete riconosciuta perché è inconfondibile, anche grazie all'imitazione di Crozza, è la dichiarazione di Giuliano Pisapia, per la prima volta ascoltato dal premier Gentiloni come leader di partito, e c'è stato pure qualche problemino su questo, sempre travaglio a sinistra, soffrono sempre, non si mettono d'accordo, e qualcuno mi dice come si fa ad arrampicarsi sulle uova, è vero, è difficile, le uova si rompono, è un'immagine, le uova si rompono, quindi è difficile arrampicarsi sulle uova. Di solito ci si arrampica sui vetri, devo aver detto una sciocchezza mentre parlavo. E allora torniamo alle cronache di queste ore e commentiamo la giornata insieme a Fulvio Abate. Buongiorno Fulvio Abate. Buongiorno Luca, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Incredibilmente, miracolosamente sveglio, buongiorno Fulvio. No, insomma, si può fare questo e altro. Insomma. Allora, fra le notizie del giorno, subito che ti voglio chiamare a commentare, c'è quella straordinaria del nigeriano che faceva l'elemosina, nessuno gli chiedeva di fare nulla, improvvisamente durante una rapina è intervenuto, ha sventato lui, ha fermato a mani nude l'assalitore, adesso gridiamo eroe, eroe. Poi lo leggerò, Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa dice però finiamolo che una volta sono assassini, una volta sono violentatori e una volta sono eroi. Mi sembra un concetto giusto, cioè bisognerebbe fare una media ponderata fra tutte le cose che addebitiamo o meno agli stranieri. No, diamo una lettura, diciamo, minima. Intanto spirito di iniziativa di questa persona. Il nigeriano o altro, la persona, diciamo, l'immigrato che staziona davanti a un bar o presente qui a Roma diventa parte, diciamo, del personale, sia pure non assunto del bar. E assistendo a quella scena è intervenuto difendendo la proprietà privata, insomma, l'esercizio, mostrando all'esercente di essere lui un pari grado del cassiere, dei camerieri che preparano i caffè battendo le tazzine. Questo penso sia accaduto, insomma. Quindi dici niente eroismo, atto minimale, pulito, però a mani nude è difficile. È un atto di coraggio perché è intervenuto, perché di solito la voce comune dice ma chi mo fa fame, se poi quello mi spara. A Palermo lo direbbero in altro modo. Sì. Se vuoi ti faccio anche la voce del palermitano. Facciamolo anche in palermitano, siamo in mondovisione. Ma voi metto il nome, anzi, ho sentito che non ha contagiato. Così parlano a Palermo. Non so, cioè, cioè che la traduzione? Se mi metto in mezzo, se poi quello mi dà una coltellata, ti ho bellissimo. Fatto due possibili varianti. Bellissimo. Allora, ti ho fatto un palermitano diciamo profondo. Non ti ho fatto. Se vuoi ti faccio anche il palermitano della, diciamo, tipo micichè, come lo direbbe. Come lo direbbe? Micichese. Micichese. E la metti in mezzo e poi anche se quello mi dà una cortellata, così. Adesso li abbiamo tutti. Senti, lo sai che è morto Tom Petty? No, ero il sito me lo dava me lo dava ancora infartuato. Questo mi dispiace, perché mi viene in mente diciamo quello che rappresenta Tom Petty nella storia del rock italiano. Cosa rappresenta? Rappresenta la tradizione del rock con tutte le sue influenze, come posso dire, della nuova frontiera, insomma. Poi me lo ricordo in quel videoclip insieme a Dylan, Roy Orbison e altri. Cioè, insomma, secondo te sono i grandi giganti che ci stanno lasciando e non hanno sostituti? Finisce un'epopea di un certo tipo di rock che era vissuto sulla pelle, che era sangue, carne e accordi? Beh, sicuramente, diciamo, il rock delle origini, poi stiamo parlando degli anni 60-70, diciamo, ha su di sé, mostra un carico drammatico che poi non percepisci più in seguito, anche perché gli stessi mostri sacri del rock a un certo punto hanno istato la bandiera del rehab e hanno detto che, diciamo, sesso, droga e rock and roll sì, però anche l'aerobica non è male. C'è un dato di fatto, insomma. Senti, la grande questione della Catalogna: l'Italia è divisa esattamente come la Spagna, fra chi ovviamente è scioccato dalle immagini della Guardia Civile che picchia anziani, donne, chiunque, e chi comunque invece dice però attenzione, perché questo processo di separazione in Europa può innescare un terremoto che distrugge il fondamento del cosiddetto Stato-Nazione. Capito, ma lo Stato non è un valore assoluto, cioè esiste un filone politico come quello anarchico, libertario, che ritiene, e addirittura anche i comunisti ritengono, che Marx ritiene, che in prospettiva si debba aggiungere alla dissoluzione dello Stato. Ho capito, ma stiamo parlando di filosofia. Che coppia, ecco, stamattina mi fate godere. Ma perché qui coppia? Sì, perché siamo noi due, sì, forse. E poi Valdimiro ci informa che è a pesca, come tutte le mattine. Sei contento di questo? Sì, mi viene in mente un grande nostro amico cantante che è anche lui pescatore, insomma. L'autore di Sereno è Drupi, che saluto, insomma. Drupi è pescatore, ma... Drupi stava montando delle piastrelle il giorno in cui la sua casa discografica lo chiamò e gli disse vai a Sanremo, insomma. Una persona meravigliosa. Grande voce da nero pescatore, italiano, pescatore, ma non sapevo che fosse pescatore. Conosci delle cose incredibili. No, ma Drupi è un amico, una persona meravigliosa, insomma. Bene. Scusa questo inciso sull'amico Drupi. Lo sai che c'è polemica sul fatto che Staino addirittura gli fa il primo titolo, il titolo di prima pagina, l'apertura sulla Verità, a venire al ruolo del presidente degli Atei? Scritto così sembra un po' buffo. Poi il presidente dell'associazione Atei è Staino. Io neanche sapevo che fosse presidente, pensavo che fossi tu. No, io no, perché, diciamo, ritengo l'ateismo un'altra forma di militanza religiosa. Stai dicendo? Cioè sei addirittura contro l'ateismo, allora, da una posizione più laica, ma perché? Ora devi spiegare questa provocazione. Allora, perché l'ateismo è una forma religiosa? Come può essere? Io devo a te di aver messo al mondo in una televisione privata il mio canale televisivo Tele Due Ruti, e la televisione privata si chiamava Teleambiente. A Teleambiente ci stava ogni sera, forse no, una volta a settimana, la trasmissione del gamma di gruppo Atei, materialisti dialettici. Cioè, è una specie di setta. Che aveva come leader una signora, Miriam Pellegrini Ferri, e mi ricordo che, diciamo, il modo di esporre l'ateismo col dito sollevato aveva un non so che di come posso dire, di autoritario, di inquietante. Quindi, sinceramente, io non riuscirei mai a iscrivermi a un'associazione di atei. E allora, però, come se mi chapeau ad avvenire, no? Chapeau ad avvenire, che è la cosa più bella, che dà una striscia quotidiana al presidente dell'associazione degli atei. È una cosa meravigliosa. Ma credo sia stata una carica onorifica, perché diciamo, essendo Stein un senatore della satira e del giornalismo, molto presto lo faranno anche, che ne so, diciamo, presidente onorario dell'associazione di Ippica o altro. Comunque non si ironizza su un signore che fa satira, anche se dovesse fare delle cose, diciamo, disdicevoli, per un fatto di doverosa ironia. Io non ho condiviso molte cose di Stein, ho ritenuto in certi momenti che lui insieme ad altri tipo LK abbiano fatto una satira di diciamo pure organica, di partito. Stai dicendo, però... di regime. E ti devo solo fermare un attimo perché è giunto il momento delle strade in diretta. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Mattino. I già svegli. Sono sveglio da 45 anni a questa parte alle 5:15 perché mi alzo, mi vesto e vado a lavorare. Sono un ospedaliero e tutti i santi giorni mi sparo 150 chilometri per andare e tornare dal lavoro. Sono Gian Guido e faccio il tornitore. Ogni mattina mi sveglio alle 5 e mi sono rotto le palle. Sono sempre sveglia a quell'ora perché sono una vecchia signora di 88 anni, ma volevo parlarvi dei miei 18 anni. Era il 1947, io avevo appena fatto la maturità, si votava per la prima volta le donne, io non potevo farlo perché allora si votava a 21 anni, e ancora oggi mi resta il rimpianto di non aver potuto dare il mio voto. Sono già sveglio perché la notte non riesco a dormire per i troppi pensieri. Ma vorrei dire ai catalani, ma lo sanno che quando saranno, se saranno staccati dal resto della nazione, si dovranno pagare le pensioni, le invalidità, il welfare, i servizi, le scuole, le strade, le ferrovie, che dove c'hanno anche i traghetti? Lo sanno questi furbacchioni? Io dico di no. Saluti! Che bello, che straordinario affresco è il racconto di questa Italia che si sveglia, che si racconta attraverso il risveglio. È bella la storia della signora che ricorda il suo primo non voto, questo è molto bello in questi tempi in cui sembra un diritto scontato, e direi che è ancora più interessante questo popolo di persone che dicono sono già svegli per i pensieri, ormai sono già una decina, quelli che sono già svegli per i pensieri, hai capito? Hai capito? Sei ancora lì, Fulvio? Sono qui. Cioè, ti rendi conto che tu hai delle persone che ti ascoltano non perché devono lavorare, non perché sono insonni, ma perché hanno tanti pensieri? Ma stai scherzando? L'altro giorno sono andato a fare una visita in ospedale e il primario mi ha detto: tu hai ascoltato a Radio 24. Quindi, insomma, ho avuto la percezione che esistiamo anche adesso. Quell'immagine che tu hai restituito in realtà andrebbe chiamata, parafrasando un libro, l'Italia sul dopoguerra, l'Italia di mattina. Ecco, così come Max Ernst aveva realizzato un quadro intitolato L'Europa dopo la pioggia, pensando alla seconda guerra l'Italia mondiale. L'Italia di mattina, ma come l'Italia sei poetico. Invece no, le tue parole hanno ispirato un meraviglioso distico. Fatti non foste per viver come drupi. sì, credo sia un classico dire questo, insomma. Sì, ma magari sì, dire come drupi. Sì, esattamente. Fammi dire due parole sulla Catalogna. Allora, l'altro giorno lì la questione è complessa, perché in quel movimento ci stanno gli anarchici da una parte, tutto il sentimento repubblicano antifranchista, e bastava guardare la piazza e osservare, riconoscere le bandiere presenti. In primo luogo quella dei sardi, che non manca mai, come avrai notato. Beh, è onore alla bandiera dei sardi. Ma quella c'è, è andata una delegazione. Pure al concerto del primo maggio sta in prima fila col bandierone sardo. poi ci stava la Euskerrina, cioè la bandiera dei baschi. Poi ci stava la bandiera, che ricordiamolo per chi non la conosce, è come una bandiera inglese solo con i colori primari del verde e del rosso, cioè è fatta col sistema delle croci incrociate. Ti devo purtroppo correggere, il verde non è un colore primario. No, i colori, scusa, complementari. Sono due colori complementari. Io ho detto proprio uno strafalcione. È il contrario. Poi ci stava la bandiera bretone, che è come quella degli Stati Uniti, con i gigli bianca e nera come quella della Juventus. Poi ci stava la bandiera... No, ma questa, vedi, mi mancava la bandiera bretone. È importante. Sì. Poi ci stava la bandiera repubblicana spagnola della Seconda Repubblica, quella lì di Manuel Azaña, 1936. E com'è rosso, fatta la bandiera? Rosso, bande orizzontali, rosso, giallo... viola, che è la bandiera repubblicana. Non lo sapevo. E poi c'era anche la bandiera del fronte antifascista, quella con la bandiera nera e la bandiera rossa insieme. Quindi sono riusciti, Rajoy, nella sua, diciamo, ottusità politica, è riuscito a creare una saldatura che va dal capitalismo storico, diciamo catalano, quello che ha messo al mondo meraviglie attraverso le committenze come Parco Güell di Gaudí e la Sagrada Famiglia, è invece il popolo del... La radicalità dei baschi, che sono da sempre di sinistra. In questo caso dei catalani. Dei catalani, c'è una mappa straordinaria, cioè nel senso... Poi, fra l'altro, gli anarchici mi hanno appena scritto, perché oggi aderiscono allo sciopero generale e ritengono che il Pepe, o come cavolo si chiami, rappresenta la continuità del franchismo. Bene, no, è divertente che gli anarchici scrivono a te per avvisarti che stanno aderendo allo sciopero generale in Spagna. È importante che tu sia un'autorità morale. No, ma dicevo, c'è la mappa dei possibili stati secessionisti europei, fa impressione, a seconda di quale sia l'umore con cui ci si avvicina, sono circa 100 le nazionalità, dai bretoni ai baschi, tutte le nazionalità che potrebbero esplodere se si avviasse un effetto domino in Europa. Ma sai, io sono siciliano, la Sicilia nel dopoguerra, nel 1943, ebbe un fortissimo movimento separatista con un suo esercito, Evis, esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, e aveva anche una bandiera, ma soprattutto la richiesta era di diventare la 49esima stella degli Stati Uniti d'America. Ma il bandito Salvatore Sicilian Azzone, Sicilian Nation. Giuliano, ma stai scherzando o è vero che voleva diventare la 49esima stella? Sì, assolutamente vero, non è affatto una battuta. Salvatore allora, Giuliano ebbe il titolo di colonnello dell'Elite. Allora prendi posizione, perché io sono contro Oscar da giorni, impegnato in un dibattito a favore del buon vecchio Stato-Nazione, romantico, idealista, ma che si tiene insieme sulla solidarietà e non solo sull'etnia o sull'interesse. Però ci ascoltano da Parigi, Salvatore da Parigi, grazie ragazzi, ma grazie a te Salvatore che da Parigi ci ascolti. Invece una comunicazione di servizio importante, la battuta "fatti non foste per vivere come drupi" era di Diego Abbandantuono. L'ultima battuta, Fulvio. Nei fichissimi, credo, la faccia. Ah, vedi, ma questa è la cultura contemporanea. Esattamente. Riabilitare i fichissimi. Sei d'accordo? Ti di un capolavoro pop sottovalutato prima di salutarci? Ma un capolavoro pop sottovalutato. Adesso non. Ah, sì. Il giudice, l'arbitro, quello lì con grande Mario Ferrotenuto, che c'ha il figlio, dice un figlio laziale, meglio Frocio, questa è la battuta, diciamo, che allora sta nascendo il movimento di liberazione da Telese. Grazie anche a Rudy per questo messaggio. Torniamo subito dopo GR Strade in diretta.